ballare, signor contigo. Se vuol ballare, signor contigo, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.